di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Segnala al centro del campo l'assistente di Oliver. Nuovo vantaggio dell'Armenia. Dove abbiamo perso questo mondiale? L'abbiamo perso con la partita in Costa Rica. Noi in quella gara dovevamo far di più, avevamo le possibilità di far di più. I suoi giocatori nello spogliatoio avrà sicuramente raccontato che la partita contro l'Azerbaigian sarà una partita difficile, cerca di convincere anche noi. Qui c'è poco da convincere, nel senso che abbiamo visto anche nell'ultima partita di qualificazione quanto grandi squadre, anche come la Germania, no, abbia faticato con la Scozia, il Portogallo ha perso in casa contro l'Albania, ma ce ne stanno tantissime. Il calcio si è evoluto un po' in tutto il mondo, quindi non ci sono più nazioni sprovvedute. Non dimentichiamo l'Azerbaigian faceva 1-1 contro la Bulgaria, che è una candidata a passare il turno. Questa è la testimonianza che troveremo una squadra che avrà voglia, avrà stimoli perché gioca contro l'Italia, però resta il fatto che noi dovremo cercare di fare la partita, di far capire subito che il campo è in salita domani. Franco Piazzanini, autore di questa puntata e di questa copertina, insieme a Robby Scaltritti, mamma mia, Claudia Schiattone non sa più dove toccare. Le abbiamo toccate tutte le corde per cercare di tenere sveglia la nostra nazionale, perché poi, dopo tutti i convocati, e dopo tutta la programmazione del pomeriggio, dopo tutto alle 20.45, questa sera Palermo arriva Italia-Azerbaigian. Ci giochiamo la seconda fiche sul tavolo delle qualificazioni europee. Due precedenti, due vittorie nel 2002 e nel 2003. Squadra l'Azerbaigian numero 95 nel ranking FIFA, mai sopra il 73esimo posto. Insomma, diciamo la verità, c'è di tutto per dire che è una partita da cui non dobbiamo temere alcuna trappola, o no? 800 24 00 24. Pier, ciao. Ciao. No, io sono molto ottimista, molto fiducioso, ma l'ottimismo e la fiducia nascono secondo me dall'effetto Conte, non da lui come allenatore soltanto, ma dal fatto che insomma c'è voglia di partire bene, no? È un po' il discorso che abbiamo fatto anche già sulla prima amichevole. Siamo in una fase in cui i giocatori non sono appagati, non abbiamo la qualificazione già conquistata come era successo l'anno scorso a Napoli in quella partita che poi ci è costata il posto da testa di serie. Abbiamo invece la consapevolezza di poter essere veramente una squadra importante, ma di dovercelo veramente guadagnare di partita in partita, anche in quelle che sembrano meno difficili. La filosofia di Antonio Conte era sempre il famoso martello. Io penso che stasera vedremo una nazionale affamata, nonostante chiaramente in questo momento ci siano stati veleni, polemiche, il campionato è già entrato veramente nel vivo, però io penso poi che la nazionale abbia fatto tutto quello che doveva fare per ovattare, no? Per far sentire i giocatori protetti e concentrati solo sull'obiettivo. Sì, stasera vediamo anche e verifichiamo anche quanto, al di là delle parole ufficiali di questi giorni, a Coverciano sono riusciti a blindare l'ambiente, i cancelli, il ritiro, cercando di tenere lontani i veleni di Juventus-Roma, veleni che ci sono anche oggi e poi ne parliamo. È vero anche, Pier, che tradizionalmente noi siamo capaci di farci male proprio in serate come queste, quando pensiamo che sia tutto molto semplice, quando pensiamo che sia tutto molto scontato. Invece questa è la prima di due tappe, compresa quella di lunedì a Malta, che ci devono quasi consegnare mezzo pass per l'europeo, devono nobilitare quella vittoria in trasferta con la Norvegia, che già ci regala un certo vantaggio in classifica, e non è da tutti. Abbiamo visto cosa è successo ieri ad esempio alla Spagna. 800 24 00 24. Mi piace sapere anche da voi a casa se si può aver paura dell'Azerbaigiano o se è soltanto Franco Piantanida con la sua copertina. Ma questo è, un rischio, è un pericolo che ha sempre corso la nazionale anche negli anni passati, no? Quello che poi tante volte le vicende di campionato oscurino un po' questi 8, 9, 10 giorni, questi impegni che per noi rappresentano la vita in quanto ci giochiamo la qualificazione. Detto questo, i ragazzi devono sapere che starà a noi. Abbiamo, diciamo così, acceso una piccola fiammella, no, di entusiasmo intorno a questa nazionale. Dovremmo essere bravi noi, tramite le nostre prestazioni, a regalare emozioni alla gente, proprio tramite il gioco, tramite la voglia, tramite la determinazione. Regalare proprio emozioni, passione, entusiasmo alla gente, perché la gente ha bisogno di questo, noi lo sappiamo e cercheremo, ecco, di fare questo in un percorso che deve essere un percorso di crescita. Sì, perché sarebbe un peccato buttare via quello che è stato fatto a settembre, soprattutto dal punto di vista dell'impatto emozionale di Conte con la nazionale, i tanti consensi che ha avuto e anche i punti importanti che ha fatto in Norvegia. 800 24 00 24. Carissimo Pier, per capire se davvero dobbiamo avere paura o no dell'Azerbaigian, noi abbiamo convocato Antonio Cabrini. Ciao Antonio. Però, buongiorno, ciao a tutti. Dobbiamo avere paura? Dobbiamo avere rispetto. La paura ci deve essere sempre dentro, in ogni singolo atleta, però rispetto dell'avversario. Paura te la crei e te la gestisci a tuo piacimento. Sì, a volte è anche un vantaggio provarne un po', visto tradizionalmente come siamo andati in questo tipo di partite. Sono CT che hanno, io ricordo le polemiche quando Trapattoni, ad esempio, prima di un'Italia-Ecuador ai mondiali, dipinse De La Cruz praticamente come Pelé. Spesso ce lo siamo creati da soli, l'avversario, pur di non sottovalutare queste partite. Sì, sì, poi oltretutto la paura fa parte del DNA dell'individuo, dell'uomo in generale, quindi è chiaro che dopo la devi gestire, la paura, e poi questa paura può diventare rispetto dell'avversario, anche se un avversario magari non di altissimo livello, però è giusto che soprattutto tu non devi guardare in faccia l'avversario, devi fare il tuo gioco, devi sfruttare le tue caratteristiche. Pier. Ma assolutamente, guarda, io credo che partite come queste sono soprattutto legate alle motivazioni che riesce ad avere, all'atteggiamento che ha in campo fin dai primi minuti. È vero che nel DNA dell'Italia c'è questo tipo di approccio, spesso un po' morbido, nelle partite apparentemente già vinte. Infatti c'è anche una storia ogni tanto di una casistica di grandi occasioni buttate. Però ripeto, io penso che qui l'effetto Conte sia quello predominante. Fin qui, insomma, su Conte ci ho beccato. Sulla energia che avrebbe portato, sulla disciplina che avrebbe portato, semmai fa sorridere sentirlo uomo improvvisamente di tutti, no? Lui che fino a qualche mese fa comunque le polemiche non dico che le amasse, ma insomma le usava anche per l'interesse legittimo che aveva ovviamente la sua squadra. Adesso chiaramente invece sulla polemica del campionato Conte ha un atteggiamento molto diverso, ma perché penso a se stesso, il discorso, io non ho mai creduto che potesse essere influenzato dallo sponsor, e anche questa seconda tornata di convocazioni lo conferma. Conte è influenzato soltanto giustamente dal suo interesse, che fortunatamente coincide col nostro, quindi io sono molto fiducioso. Sì. Si è molto calato nella parte, Antonio. Sì, ma fa parte poi anche del tipo di atteggiamento di Antonio, di Conte, nel senso l'abbiamo visto in questi tre anni come ha lavorato sulla Juventus, che ha lavorato più che a parte sotto l'aspetto tecnico-tattico, però soprattutto sotto l'aspetto mentale, quindi penso che si stia mettendo molto del suo in questa nazionale, assolutamente, lo vediamo da come comunque dall'atteggiamento della squadra quando entra in campo, che poi sia l'avversario più o meno forte. Sì, ma è una garanzia Conte che non ci siano cali di tensione, che possa essere cambiata questo antico vizio che abbiamo? Cioè basta un CT per cambiare la testa a un gruppo, quando poi si sbaglia è il CT che non è riuscito a trasmettere questo tipo di rispetto, di tensione a una nazionale? Ma io sono dell'opinione che può variare questo tipo di tensione, ecco, però è sempre una tensione, almeno da quello che ho visto nelle squadre di Conte e nella Juventus, questa tensione può variare da dal 70 al 100%, non si va sotto quel tipo di percentuale, quindi vuol dire che c'è una tensione sempre molto alta e quindi hai sempre una risposta precisa da parte dei giocatori. Poi mi fa sorridere Pier Conte, mi fa sorridere in modo bonario, ieri quando ricorda l'Azerbaigian, attenti, ha perso soltanto l'87esimo contro la Bulgaria, che è una squadra che può andare all'europeo, l'ho preparata come se fosse una sfida con la Germania, i video, che da un certo punto di vista segna anche un altissimo grado di professionalità, però bonariamente si può anche sorridere. Ma certo, ma noi dobbiamo sorridere, l'importante è che non sorridano i giocatori. Noi possiamo chiaramente pensare anche che sia tutta una grande scena, però insomma il fatto che l'Azerbaigian abbia perso a 30 alla fine con la Bulgaria è un dato oggettivo. Il fatto che le distanze nel calcio europeo rispetto a 20 anni fa, rispetto all'epoca per esempio di Antonio, siano cambiate, questo è evidente, nel senso che oggi, a parte veramente povero San Marino, forse le Faroe, 3-4 squadre, non di più in Europa, comunque non te la porti da casa con nessuno. E quindi secondo me è un atteggiamento che ci sta. E poi comunque Antonio Conte, pure se gioca contro la Solbiatese o contro i dilettanti, ha questo tipo di atteggiamento, soprattutto poi se contano i 3 punti, e in particolar modo in una fase come questa, nella quale deve comunque costruire una mentalità e vuole far capire che c'è una disponibilità rispetto al passato. Quindi io ci credo e penso che stasera, ripeto, sono molto ottimista, penso che faremo una buona partita. Poi torna Pirlo questa sera, Antonio, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi sul fatto, l'ha ribadito anche qualche ora fa Conte, che sostanzialmente Verratti alternativo a Pirlo, che lui ha in mente un solo titolare tra Pirlo, Verratti e De Rossi come regista davanti alla difesa, e che in un certo senso non dobbiamo dare per scontato che questo biennio sia un biennio in cui Pirlo sia il fulcro, la trave, l'architetto della nazionale. Fa impressione, al di là dell'età. Sicuramente è chiaro che in Pirlo lui riconosce, diciamo, l'esempio massimo di centrocampista, l'ha avuto 3 anni a Torino, quindi sa benissimo come gestirlo, soprattutto più che come farlo giocare. È chiaro che non guarda, ha dimostrato Conte di essere un allenatore che non guarda in faccia a nessuno, nel senso chi sta bene gioca, chi non sta bene sta a casa. Penso che sia poi una prerogativa di questo allenatore, e soprattutto penso che siano le soluzioni migliori, nel senso non si può stare lì dietro al nome, al fatto che possa dirmi può cambiare la partita, speriamo, non speriamo, vediamo. Se stai bene giochi, non stai bene stai a casa, chiuso. Sì, ho l'impressione che Pirlo e Verratti insieme, Pier, non li vedremo mai, nemmeno con Conte, se non per ragioni e circostanze particolari. Sì, c'era il famoso discorso prima della gara precedente sulla... anche legato a De Rossi, con uno solo dei 3 in campo contemporaneamente. No, io che ti devo dire, penso che sì, Verratti ha una stampa eccezionale e è un giocatore che piace la matti, è un giocatore che sta crescendo, è il giocatore l'anno scorso del gruppo Italia che è andato più avanti a livello europeo da titolare nel Paris Saint-Germain, però insomma poi alla fine vedo vari allenatori diversi che fanno fatica a consegnargli senza se e senza ma la titolarità in questa nazionale, e quindi poi alla fine mi fido un po', insomma, di tutto questo. Il talento c'è, è un giocatore che ha una sicurezza tecnica enorme, che certe volte tende anche a rischiare troppo proprio perché è sicuro dei propri mezzi tecnici, quindi questo lo si è visto anche spesso con Paris Saint-Germain. Mi sembra un talento incredibile, importantissimo, però evidentemente ci sono anche altre valutazioni da fare. Quello che tu dici è verissimo, non è che sì, che difficilmente solo, lo vedremo, che si spiegano tante cose, si spiega ad esempio anche perché la Juventus forse nel momento in cui bastava poco per portarsi a casa Verratti ha pensato a lui come possibile erede di Pirlo e quindi ha perso l'attimo, ha perso il momento giusto, non ha mai pensato a Verratti come a una risorsa che fosse anche immediatamente utilizzabile. Poi è arrivato il Paris Saint-Germain con la sua offerta e Verratti è finito a Parigi. Prima di chiudere, io volevo chiedere ad Antonio se gli piace la coppia Immobile Zaza, la coppia ignorante, perché così si è definita. Beh, è una coppia sicuramente che è cresciuta alle spalle dei vari Balotelli, quindi una coppia che ha ancora molto da dimostrare, molto da fare. Sono due comunque. La cosa importante, almeno la cosa che mi balza, è quella di che sia che giocano uno in Germania, e questo è sicuramente una cosa positivissima, è un'esperienza internazionale importantissima, in un campionato importantissimo, e Zaza che ha davanti a sé una grande carriera, e mi sembra che la stia gestendo nella giusta maniera. Soprattutto vedo che almeno fino a questo momento ho visto che questo binomio sta funzionando molto bene, non sono venuti a mancare gli elementi che magari facevano della nazionale italiana i punti di forza. Sì, anche se poi lo stesso Zaza ha ammesso, Zaza che non segna da 5 partite, dopo la prima convocazione, dopo i gol, ho un po' mollato psicologicamente, segno che poi quel salto di qualità non è semplice da fare, da attaccante molto, del Sassuolo. Molto onesta come ammissione. Veramente sentiamo dire una cosa del genere del calciatore, quindi complimenti a Zaza per l'onestà, e però ecco, insomma, allora... Secondo me i due salti che deve fare questo ragazzo adesso sono quello innanzitutto di acquisire la giusta mentalità per essere un giocatore della nazionale, e secondo è fondamentale che cambi ambiente, non per niente, non perché Sassuolo non si sta bene, però lui deve assolutamente andare in una squadra che gli può dare la possibilità di maturare e far vedere proprio il valore vero di questo ragazzo. Sì, anche a costo di andare all'estero. Anche a costo andare all'estero, assolutamente. Grazie Antonio. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, Pier, ti lasciamo all'aeroporto. Sì, poi dai, torni però. Semmai dopo, sì. Grazie. Dopo. Tutti convocati. Sometimes I think that I'm on the right track, but I keep coming back to the same place, the same place where I started. È stato per me un giocatore molto importante nel club, e sarà altrettanto importante anche in nazionale. Domani gioca Andrea, perché sta bene, avevo il dubbio sul fatto che era da più di un mese che non giocava, poi ha giocato da titolare la partita, anche un big match, e quindi ci sono state una serie di situazioni per cui con noi siamo molto felici. L'unica persona per cui potevo cambiare idea, fosse arrivato un altro allenatore, sicuramente adesso non sarei qua. Abbiamo parlato, vi ho dato la mia disponibilità in tutti i casi a venire in nazionale, perché so che c'è un progetto importante per questi 2 anni, quindi con un allenatore come lui che conosco sono sicuro che ci sarà da divertirsi, da arrivare tra 2 anni a conquistare qualcosa di importante. A me non è cambiato niente, la voglia di giocare è la stessa, e quindi vengo con grande entusiasmo, so che magari tante volte ci sarò, non ci sarò, però ho dato la mia disponibilità anche per questo, quindi non c'era mai nessun problema. Andrea, ho avuto, come ho detto, il piacere e l'onore di allenarlo per 3 anni, no, nel club, e abbiamo condiviso tantissime gioie, anche qualche dolore, ma è un grandissimo giocatore sotto tutti i punti di vista, ecco. Quindi nel momento in cui sono diventato allenatore della nazionale CT, il mio pensiero è andato ad Andrea, perché parlandogli anche in maniera molto, molto chiara, io penso che lui possa essere importante sia a livello calcistico che extracalcistico. E oggi Pirlo c'è anche perché Verratti è dovuto tornare a casa. 800 24 00 24. Io non so come la pensate, perché questo dualismo prima o poi andrà anche risolto, perché ci sono tanti che ci stanno scrivendo al 349 238 6666. Basta Pirlo, questo è Roberto da Belluno, oppure Verratti non titolare in nazionale è lo specchio di un paese che è solo per vecchi. Poi c'è anche un amico che scrive: Pirlo è un qua qua qua, io l'ho sempre ammirato, ma è caduto come stile, come uomo, doveva essere coerente, e mi pare di capire restare fuori dalla nazionale come aveva annunciato il 24 giugno a Natale in Brasile, oppure tornarci, ma tornarci con qualunque CT e non soltanto perché c'è Antonio Conte. Mi piacerebbe sapere come la pensate. 800 24 00 24, Luciano da Chieti. Luciano. Buongiorno, senta, io però non ho da parlare di Pirlo. Può parlare di quello che vuole. Allora, niente, io sono un abbonato Sky, simpatizzante juventino, no? Quando c'è la partita uno può scegliere il commento del Juventus Channel oppure Roma Channel come nell'ultima partita o quello di Sky, giusto? Sì. Io quello di Juve Channel non lo prendo perché dico, vabbè, questi sono tifosi, non mi piace, mi piace essere un po' equilibrato, così, no? Non troppo tifoso. Quelle della Roma, non ne parliamo. E poi devo seguire quello di Sky, ma quello di Sky è addirittura anti-juventino, allora prendo la radio quando è possibile, la accendo e devo disattivare. Se prende la radio e accende noi fa benissimo, ovviamente. Ma voi non fate la radio cronaca? Ma ad esempio domenica abbiamo fatto un lungo specialone con tante dirette da Torino, però carissimo Luciano, lei ha fatto l'800 24 00 24, se deve parlare di Sky, lamentarsi, chiami Sky. Poi è evidente che qualunque tifoso di qualunque squadra ritiene che non ci sia mai un commento adeguato, giusto, equilibrato. Io personalmente penso che domenica sia stata una domenica molto complicata per chi lavorava a Torino, compresi gli operatori dell'informazione, compreso chi stava facendo una telecronaca, una radiocronaca, un po' come l'arbitro si è trovato in pochi secondi a dover esprimere dei giudizi su episodi che ancora oggi a 5 giorni di distanza chiarissimi non sono, nemmeno con la moviola. Dario da Cuneo. Dario. Sì, ciao, io volevo chiedere una cosa, un vostro parere su questa particolare classifica di rigori che leggendo questi giorni qua mi ha destato interesse. I rigori dati pro e contro: al primo posto il Milan con 52 e 18, al secondo la Roma 51 e 29, poi c'è l'Inter e andiamo al quarto posto che c'è la Juventus con 26 rigori a favore, 25 contro, esattamente la metà dei rigori a favore di Milan e Roma, e quasi gli stessi rigori dati contro li ha ricevuti contro. Quindi mi chiedo, tutte queste parole sul sottotanto degli arbitri sui confronti, c'è veramente o no? Sì, questi sono i dati dopo Calciopoli, giusto? La classifica delle ultime sei stagioni. Dario, aspetto la risposta di quelli che diranno, quelli che hanno dato e che non c'erano per la Juventus, o che non hanno dato e che c'erano contro la Juventus, però sono quelli pesanti. A proposito, oggi trovato sul Corriere dello Sport Muntari, che è tornato ancora sul gol fantasma del febbraio del 2012, ha detto: quel gol non avrebbe cambiato nulla, anche se me l'avessero concesso, quello scudetto l'avrebbe vinto la Juventus. Questo per dire come a distanza di anni si può continuare a discutere anche di questi episodi, ci si può dividere. Chi c'è? Dario da Cuneo? No, l'abbiamo già fatto. Oggi ad esempio ha fatto discutere anche quella prima pagina del Corriere dello Sport, perché Muntari, tra le tante cose, ha detto a proposito di Totti e delle proteste della Roma: quando parla Totti bisogna stare zitti, ragione lui il calcio, e aveva ragione anche di lamentarsi dopo la partita di Torino. Roberto da Treviso. Roberto. Sì, buongiorno. Prego. No, io vorrei parlare di due cose su Pirlo. Sì. Non trovo giusto che sia stato che abbia dato la sua disponibilità alla nazionale solo per Conte, perché la nazionale non è di Conte ma è di tutti, e una mancanza di rispetto anche verso gli altri allenatori. Secondo, Pirlo ha 35 anni, gli europei si faranno tra 2 anni, se dobbiamo costruire una squadra costruiamola attorno a Verratti, se riteniamo che sia un calciatore del team, perché da qui a 2 anni Pirlo forse non giocherà neanche più magari. No, io credo che fra 2 anni Roberto Pirlo giocherà ancora, perché fisicamente in queste stagioni ha dimostrato di essere integro e di aver recuperato anche dai tanti problemi fisici che aveva avuto nella parte finale della sua esperienza nel Milan. Però il tema secondo me si pone, io continuo a essere convinto, ma evidentemente i fatti mi hanno smentito in questi anni, che forse ci possa essere spazio sia per Pirlo che per Verratti insieme. Prandelli ci aveva provato, evidentemente Conte la pensa diversamente, evidentemente la pensano diversamente in tanti, però ad esempio nel Paris Saint-Germain spesso Verratti gioca insieme a Thiago Motta. Io credo che possano anche starci tutti e due. Poi Alex scrive al 349-238-6666, lo sappiamo tutti che Verratti non vale neanche uno scarpino di Pirlo. Io non credo, Verratti è un giocatore importante ed è un giocatore che si sta rivelando importante anche per il Paris Saint-Germain. Mi sembra ingeneroso dire che non vale. Vincenzo da Roma, Vincenzo. Buonasera, è la prima volta che intervengo. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Volevo fare solo una considerazione. Io sono un vecchio tifoso romanista e per anni ho sentito i tifosi di Vincenzo da Roma tacciarci per piagnoni e invidiosi nei confronti della Juventus, mentre noi la pensavamo in un altro modo. Poi è successo quello che è successo con Moggi, Giraudo e Bettega, e noi praticamente ci hanno avvalorato quello che per anni noi pensavamo. Ecco, solo questa considerazione da estendere agli ascoltatori di Radio 24, è solamente una considerazione. Sì, lei dice che quando si diceva che le cose che succedevano non erano normali, poi è arrivata a Calciopoli e si è incaricata di confermare tutto. E ha valorato quello che noi per anni abbiamo sempre pensato. Ecco, solo questo. Ecco. Vabbè, se c'è qualche juventino che vuole rispondere, noi siamo qui, 800 24 00 24. Marco da Bergamo. Marco. Sì, salve. Prego. Grazie per avermi chiamato. Io volevo parlare della moviola in campo. Eccoci. Sì, volevo dire che io sono contrario, perché secondo me il gioco risulterebbe troppo spezzettato, troppe interruzioni, e poi chi dovrebbe decidere? Ancora l'arbitro, e se sbaglia ancora altre polemiche. Oh, dovrebbero esserci degli arbitri addetti apposta davanti allo schermo che decidono. Secondo me la cosa paradossale è che l'apertura della di Tavecchio, l'apertura della Federcalcio, che lo avete letto oggi sui giornali, ha scritto alla FIFA dicendosi disposta a sperimentare a partire dall'anno prossimo la moviola nel campionato italiano. Questa apertura arriva nella settimana in cui si è certificata l'inutilità della moviola in campo per tante cose. Oggi siamo a venerdì pomeriggio, io sono sicuro che se noi oggi chiamassimo quattro ex arbitri, in quattro non riuscirebbero a dirci, ad esempio, se il contatto di Pjanic su Pogba era calcio di rigore o no, se era dentro o fuori dall'area di rigore, se era sulla linea, questione di millimetri. Io credo che in quattro non si metterebbero d'accordo. Allora, se vogliamo la moviola, la possiamo inserire, la moviola, nel gioco del calcio, ma soltanto per fattispecie che siano assolutamente misurabili. E al di là del gol e non gol mi viene in mente poco. E poi oggi c'è anche la Formula 1 che riparte dopo la settimana difficile, con notizie sempre più preoccupanti che arrivano da Suzuka, notizie che riguardano Jules Bianchi. Fra poco più di un'ora a Sochi, dove la Formula 1 è sbarcata, la FIA cercherà di fare il punto sulle tante polemiche legate a quello che è successo domenica scorsa a Suzuka, alla sicurezza. Oggi ne ha parlato anche Alonso. È molto difficile, cioè, abbiamo condiviso tanti momenti, era sempre a Maranello, Jules, sempre a giocare calcetto, sempre andare in bicicletta, a mangiare, a cenare con lui al motorhome. Non è un weekend facile per tutti noi e per tutta la Ferrari. Quello che dobbiamo fare è essere professionisti, essere uniti come squadra e fare una gara seria per mandarli forza tutti uniti come Ferrari, a lui, alla sua famiglia e pensare a lui tutto il tempo. Grazie. Nelle prove Hamilton, Magnussen, Alonso, Rosberg, Bottas, Button, Vettel e Raikkonen undicesimo, ma è solo venerdì. Però in tanti pensano ancora giustamente a Jules Bianchi e ripeto, alle 16 ore italiane la FIA proverà a mettere il punto per cercare di spiegare esattamente che cosa è successo domenica a Suzuka. In Giappone corrono le moto in questo fine settimana, c'è ancora il rischio del tifone. Marquez. Si deve vincere il campionato a pista, non così con un tifone, no, non è lo stesso, no, non è vero. Così vediamo che sicuramente arriva, bueno, dicono che arriva il tifone per il momento lunedì, ma se arriva domenica chiediamo a Carmelo di fare la gara sabato, così si deve fare la gara. E ancora Marquez, che domenica può vincere il titolo mondiale, il secondo consecutivo, gli basta arrivare davanti a Rossi e Pedrosa. Non è andato benissimo nelle prove questa, nella giornata di oggi. Dovizioso, Lorenzo, Bradl, Pedrosa, poi Valentino Rossi, quinto a poco meno di un secondo. Marquez è anche caduto. Ha raccontato che quel circuito lì non gli piace tantissimo. Sì, siamo in Giappone, speciale, una terra speciale per Honda, no? Perché siamo il circuito Honda, ma vediamo come va. È un circuito che non mi piace tanto, ma normalmente ho fatto qualcuna gara bella, così vediamo come va. Sì, è l'ultima gara, sì che sei un po' più nervoso, ma ancora rimangono 4 gare. Così vediamo qua, ma qua penso che sarà difficile, perché devi finire davanti di Dani e di Valentino, è sempre al podio, così vediamo come va, ma sarà, lo vedo difficile, vediamo se è qua o Phillip Island. Vediamo se qua a Motegi o a Phillip Island. Valentino Rossi, che è uno dei due costretto a finire davanti a Marc Marquez, se vuole allungare di altre 2 settimane il sogno di poter in qualche modo rientrare nella lotta per il mondiale. Rossi. Sto bene, è stata una brutta caduta, però comunque già 2 ore dopo la caduta stavo bene, non ho avuto nessun problema, mi ricordo tutto, quindi diciamo che è stato un piccolo trauma cranico, ecco, ma è tutto a posto, sono come prima, purtroppo non sono migliorato, ecco, magari poteva essere l'occasione buona. Nunzio da Salerno, 800 24 00 24. Ciao Nunzio. Ciao, buonasera. Prego. Volevo dire che il signor Totti dovrebbe sciacquarsi la bocca per parlare di Pirlo, perché negli ultimi 14 anni mi trovate un giocatore che ha vinto più di Pirlo in Italia? Beh, ma allora Totti dovrebbe sciacquarsi la bocca davanti a tutti, avendo fatto la scelta di restare alla Roma, ha vinto poco, ha vinto pochissimo, molto meno di quello che doveva vincere. Nunzio, zitto, dovrebbe stare zitto. Ha giocato solo nella Roma. Pirlo è andato anche a Reggio Calabria, a Brescia e altre squadre che non ricordo adesso. Si è misurato con tutti. Per me, sono tifoso juventino, è il più grande di tutti i tempi in Italia. Sì, secondo me Totti domenica ha parlato a caldo e quindi è pienamente comprensibile. E quindi in questo senso va anche scusato, probabilmente verrà deferito, non lo so, vedremo coi tempi della nostra giustizia sportiva, aspetteremo qualche settimana, qualche mese per capire se quelle parole domenica a caldo gli valgono il deferimento, magari una squalifica. Secondo me va capito, bisognerebbe anche provare a voltare pagina. Piero da Modena, Piero. Buongiorno, salve, sono tifoso romanista, ma premetto che sono abbastanza, sembra di essere abbastanza equo. Dei Pirlo ce ne fossero, con me, fossero tutti Pirlo in nazionale, nonostante quello che dice o non dice, secondo me non avrebbe importanza. È un fuoriclasse, un grande uomo. Totti ha giocato una vita nella Roma ed è sempre stato il suo sogno, e probabilmente domenica ha parlato da tifoso, come giusto che sia, e comunque sia, se domenica la Roma faceva il 3-1 non c'erano tante polemiche in giro. Ma mi sembra che questo di fatti sia stato, al di là poi delle battute, ad esempio il senso dell'intervento di Garcia. Quindi qualcuno che ha guardato anche a quell'aspetto in casa della Roma c'è. È l'unico aspetto che bisogna guardare, perché le polemiche non portano a nulla. Cioè, sì, in generale. Polemiche che però secondo me sono anche comprensibili, ripeto, quando c'è un giocatore che giudica caldo appena finita la partita, una partita piena di tensioni, di episodi, piena di tante cose di cui, io lo sottolineo ancora oggi, a 5 giorni di distanza siamo qui a discutere, sinceramente senza avere delle certezze. Poi ad esempio ancora sulla questione Verratti Pirlo, c'è chi scrive, Paolo da Milano, la sfortuna di Verratti è la scarsa visibilità che ha in Italia, come se le partite del Paris Saint Germain siano sconosciute ai commissari tecnici della nostra nazionale. Anzi, mi sembra che la ribalta Verratti ce l'abbia, ma ce l'abbia soprattutto là a Parigi. Giovanni da Bologna, Giovanni. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Dunque, io per la questione di Pirlo, ecco, io direi ad avercene di Pirlo. È un calciatore che a 35 anni ancora voglia di dimostrare, di giocare, sta vincendo fino all'ultimo campionato con la Juve, mi sembra che ha vinto lo scudetto. Voglio dire, è uno che non ti sbaglia un passaggio, per Verratti. Verratti ci sarà tempo. Un giorno che Pirlo non ce la farà più, metteremo Verratti ancora giovane, sicché abbiamo tempo, o no? Sì, abbiamo tempo, a patto che poi un giorno non si stia qui a discutere del fatto che in Italia non c'è mai il coraggio di lanciare i giovani, di farli giocare, di lanciarli anche ad alto livello. Verratti, che gioca la Champions League col Paris Saint-Germain, secondo me non si può discutere Verratti, però è anche vero che a metà maggio Verratti non era nemmeno certo di stare dentro i 23 che andavano al mondiale. L'Italia è anche questa. Questo è il ballo del qua qua, è di un papero che sa fare solo qua qua qua, più qua qua qua. Mamma papera e papà con le mani fan qua qua, e una piuma vola già di qua e di là. Raider, la battuta, il suo destro dentro, Casillas a vuoto! 3-1! Qua qua, con un salto va più in là. Casillas regala a Van Persie, e gol del 4-1! 4-1! Doppietta di Robin Van Persie! In bambola la Spagna! Corto per il gran tiro, sorpreso Casillas, la Slovacchia in vantaggio per 1-0. Kučka con un destro violentissimo batte Iker Casillas. Perché c'è anche chi sta peggio di noi, c'è anche la Spagna ad esempio, che ieri ha perso 2-1 in Slovacchia. C'era una volta un grande campione, c'era una volta Iker Casillas. Filippo Maria Ricci, ciao. Ciao, buon pomeriggio. C'era una volta la Spagna rimasta lì in Brasile. Eh sì, 4 sconfitte nelle ultime 6, un dato demoledor, come dicono qua, che demolisce. Che succede? Mentre prima ne avevano perse 8 su 87, tipo. Sì, non perdevano in qualificazione europea dal 2006, quindi esatto, praticamente un'era partite geologica fa. Che sì, succede? Sì, sì. Succede che qua, diciamo, sono due... come due poli di attrazione o di disgiunzione, il portiere e l'attaccante, perché poi se vogliamo mettere un altro numero c'è Diego Costa, che non ha ancora mai segnato 6 partite, più di 400 minuti, non ha mai segnato con la Spagna, mentre con l'Atletico di Simeone e col Chelsea di Mourinho segna praticamente un gol a partita o più. E che succede? Che il gioco è rimasto lo stesso, gli elementi non sono più gli stessi, perché per esempio non c'è Xavi, la palla circola in maniera lenta ed è la morte del tiki-taka, cioè il tiki-taka funziona se c'è il flipper, se la palla gira a 300 all'ora e quindi si aprono gli spazi, grandi triangoli e gioco spettacolare. Si rallenta di un punto, due punti o tre punti, la palla gira piano e quindi la squadra ne risente. Ieri è chiaro, la Spagna ha creato, perché 4-5 occasioni le ha avute, il portiere è stato molto bravo. Però è chiaro che qualcosa si è rotto e non sembra che Del Bosque sia in grado di reagire. Per me il primo grande errore è l'aver acquistato Diego Costa. Diego Costa era il centravanti ideale per il Brasile. No, se uno pensa che questi sono andati a giocare il mondiale con Fred, facendo quel gioco, prendendo quel catenaccio e contropiede, palla a Neymar, dopo palla a Fred e tutto finiva. Se la palla fosse arrivata Diego Costa sarebbe stato un altro Brasile, esatto. E sarebbe stata forse anche un'altra Spagna, esatto. Visto come è andata un'altra Spagna, esatto, perché invece arriva questo giocatore che è il terminale perfetto per il gioco diretto che la Spagna non fa, e quindi siamo una grande contraddizione, e infatti Diego Costa non segna, e guarda che non far segnare Diego Costa non è semplice. Sì, bisogna impegnarsi, quasi una Spagna prigioniera di una maledizione, quella del grande gioco che è stato, che non può più essere, perché stanno cambiando anche gli interpreti. Sembra mancare Xavi, sì, riallacciandoci manca Xavi. Anche al dibattito tutto nostro, Pirlo sì, Pirlo no, Verratti, la possibile coesistenza, se davvero anche Conte fa bene a ripartire da un giocatore che ha pur sempre 35 anni, in Spagna non è successo, perché Xavi ha fatto un passo indietro, 34 anni, non va più in nazionale, probabilmente Del Bosque preferirebbe averlo ancora a disposizione. Sì e no, perché comunque l'ultimo Xavi, il Xavi dell'anno scorso, non serviva a niente. Adesso anche Luis Enrique l'ha accantonato, adesso l'ha rispolverato in queste due partite, però dipende, perché comunque far quel gioco è complesso, perché poi Xavi aveva un ruolo per me più dinamico rispetto a Pirlo. Per me noi possiamo sopravvivere di più con Pirlo 35enne di quanto la Spagna potesse fare con Xavi 34enne. Poi dopo, detto questo, un piccolo inciso, per me è assurdo che non giochi Verratti, come per tutti gli spagnoli che ormai io, diciamo, frequento, lo considerano un grandissimo giocatore, però chiudiamo la parentesi. No, ma anche questa è una maledizione, è la maledizione di un giocatore che certamente è molto più apprezzato all'estero. Prima esatto. Un amico scriveva via SMS al 349-238-6666 e Verratti ha il problema di non avere una vetrina illuminata. Insomma, Verratti gioca a Parigi. Chi non segue il Paris Saint-Germain, chi non segue la Champions, io stento a credere che Prandelli prima e Conte poi non si siano resi conto di chi è Verratti. No, infatti, però non ha mai giocato in Serie A, no? E quindi per questo probabilmente non ha la vetrina, ma insomma sappiamo bene che non è così, miglior vetrina non c'è. E tornando invece un attimo alla Spagna, il discorso di Casillas è una vera telenovela, è completamente perso. Sì, è un fogliettone, io l'ho visto lunedì scorso, ha fatto questa intervista, no? Dopo tanto silenzio finalmente si siede di fronte a un giornalista politico, non un giornalista sportivo, un'intervista lunghissima, 50 minuti, e io ho fatto il paragone con la faccia che aveva ieri, i dubbi, sia con l'intervistato che in porta, lo vedevi e dici ma che faccio, parlo, non parlo, rispondo, non rispondo, esco, non esco? Vado con la mano sinistra piuttosto che con la mano destra, e io lo vedo completamente perso. Poi resta un grande portiere, perché ieri ha fatto anche una bellissima parata, però è chiaro che mentalmente il portiere deve essere fresco, deve essere libero, e lui invece mi sembra proprio schiavo, martoriato dai pensieri. Per me c'è solo una soluzione: dovrebbe andare via dalla Spagna. Sì, anche se non può andare via dalla nazionale, io credo che prima o poi si aprirà il discorso anche nella nazionale spagnola se far giocare o no De Gea, che comunque ha una riserva domani, di un certo livello. Già domani, dici? Sì, se ne parla già, il dibattito è aperto, e vediamo se Del Bosque cambia. Del Bosque è un grande conservatore, uomo di sinistra, di famiglia sinistra, però in realtà grandissimo conservatore. Per me non ha il coraggio di affossare Casillas adesso. Però e poi la partita con il Lussemburgo, se proprio c'è, cioè, Casillas può anche fare una papera, difficile che non vincano, insomma, quindi secondo me insiste. Sì, è la partita ideale per continuare a dargli fiducia, per fare non questo gesto simbolico, la Francia, capito, la Germania, l'Italia, o... sì, ma Marco scrive: la Spagna sta tornando la nullità che è sempre stata. Attenzione, siamo a fine, nel momento di passaggio da un grandissimo ciclo a un ciclo che si deve costruire. Ha cambiato molto, perché a differenza dell'Italia, Del Bosque ha cambiato molto dopo il fallimento del mondiale. Attenzione, non esageriamo, rischiamo fra due anni poi di svegliarci con la Spagna, che resta comunque tra le favorite dell'Europeo. Assolutamente, dai, cioè comunque hanno vinto Europeo, Mondiale, Europeo, cosa che non ha mai fatto nessuno, quindi ci vuole, comunque ci vuole rispetto anche nell'affossarli, non so, nel criticare, comunque ci vuole un enorme rispetto. Hanno ancora giocatori come Fabregas, Iniesta, lo stesso Diego Costa, Silva, Casorla, Mata, può arrivare Isco, c'è Thiago Alcantara dietro, insomma. Busquets, sì, avessimo noi tutta questa abbondanza di seconde scelte, di seconde linee, non seconde scelte, di gente da buttare, invece noi siamo aperti sempre a questo discorso. Pirlo, Verratti, scrive un amico Ulisse: se Verratti fosse stato disponibile giocava lui, Pirlo non veniva nemmeno convocato. Non lo so, Pirlo non veniva nemmeno convocato perché non aveva ancora fatto nemmeno un minuto in campionato, poi dopo l'ha giocato contro la Roma, poi Verratti si è fatto male, quindi sono cambiate le convocazioni. Ho l'impressione che Pirlo farà parte a prescindere di questa nazionale. L'aspetto tattico, secondo me, interessante è che Conte l'ha detto chiaramente: nella sua testa gioca solo uno tra Pirlo, Verratti e De Rossi. Sì, questo è il nostro problema. Io non lo so, a me dispiace. Poi voi, Conte, lo rispetto, è un grandissimo e sa quello che dice. E così un po' mi pongo quasi da tifoso, visto che vivo all'estero e l'Italia mi piace molto. Proprio mi piace di farla, mi dispiace che non possano giocare insieme e continuo a pensare che potrebbero farlo, però ripeto, massimo rispetto per Conte, le sue decisioni, e se lo dice va bene così. Però insomma, ecco, la differenza è che noi dobbiamo prendere Paletta, e qui hanno un sacco di giocatori, basta guardare l'Under 21 che gioca oggi pomeriggio, Deulofeu, Morata, Isco, adesso neanche una lista infinita. Sì, la differenza tra noi e loro a quel livello è forse fotografata da quel 4-0 che poco più di un anno fa chiuse l'europeo precedente. Poi c'è chi sta peggio di noi, c'è la Svizzera ad esempio che ha perso ieri la sua partita di qualificazione, c'è Ibrahimovic, carissimo Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid, c'è Ibrahimovic che ieri era in panchina, ma rischia questo europeo, se la Svezia non comincia a correre, di vederlo col binocolo. Vabbè, due partite, due punti. Però è impossibile, questo europeo è fatto per far qualificare chiunque. Cioè, è partito col freno a mano. Mi sembra una formula surreale. È veramente dura restare fuori, ti devi impegnare parecchio, dai. Grazie Filippo. Sì, bisogna impegnarsi, eh. Ciao, alla ciao, prossima. Ciao. 800240024, Mauro da Ascoli Piceno. Mauro. Sì, pronto. Prego. Salve, grazie per avermi convocato. Faccio un passo indietro, torno alla partita, alla tanto discussa partita dello stadium. Ma io sono uno juventino, ma credo di essere anche abbastanza obiettivo e dico che comunque ci sono state situazioni che hanno aiutato la Juve in quella partita. L'arbitro ha sbagliato molto, nel senso, io probabilmente non avrei dato nessuno dei tre rigori, però non ho sentito nessuno parlare lo scorso anno, non so se qualcuno ricorda il gol di Peluso nella semifinale di Coppa Italia, quando sì, il cross che era rimasto dentro è stato giudicato fuori. Ho giudicato fuori, forse fuori non era, quindi credo che comunque quando una situazione è a vantaggio della Juve, credo che ce ne siano, per carità, però vengano un po' amplificate, no? Sì, mi sembra si parlò anche abbastanza di quel gol di Peluso, mi sembra che anche quello, visto che siamo qui a parlarne un anno di distanza, sia carissimo Mauro la conferma che su tutto ciò che non è esattamente misurabile e non si possono mettere 50 telecamere, una ad esempio per ogni linea del campo, la moviola in campo serva poco, perché anche quel gol di Peluso non si è mai capito se la palla fosse entrata o uscita, se le proiezioni chiarissero in maniera definitiva qual era la posizione di quel traversone, a proposito di chi vuole la moviola in campo e di chi ritiene che la moviola in campo possa risolvere qualsiasi problema. Salvatore da Siracusa. Salvatore. Io devo ritornare sul discorso che il radio spazzatore un momento fa può. Non credo che... Allora Salvatore, si sente malissimo e adesso proviamo a riagganciare la linea. Gennaro da Belluno. Gennaro. Salve, buonasera. Niente, prego. Volevo dire una roba. Forza Azzurri, chi gioca, l'importante è vincere. Un'altra robetta volevo dire sulla maiola in campo, che io sono favorevole, però credo che non risolverà tutti i problemi del mondo. Però riguardando la partita famosa Juve-Roma, sulla punizione che poi Maicon prende con la mano, braccio, non braccio, dentro, fuori, abbiamo uno strumento che l'arbitro non ha usato. Ha uno spray, una volta che va fuori, ha munizioni per Maicon e via, si riprende. Cioè non riusciamo a utilizzare alla perfezione quello che abbiamo, già prendiamo moviola, contro moviola, bla bla bla bla. Io comunque sono favorevole. Sì, lo spray non è uno strumento, anzi lo spray nel caso del colpo di gomito di Maicon in realtà ha finito per ingannare, lo ha detto, lo ha fatto dire lo stesso Rocchi, non c'entra nulla dove partiva la barriera, c'entra dove ha toccato Maicon la palla con il gomito. Posto che esiste anche una scuola di pensiero che dice che Maicon stava semplicemente riparando il volto dal pallone, quindi in ogni caso non si sarebbe trattato di calcio di rigore. Però vede Gennaro, anche qui passati 5 giorni stiamo discutendo di quello che all'apparenza è l'unico episodio chiaro di tutto quello che è successo domenica sera Juventus-Roma. Qualcuno ha scritto: questa sera guardate la nazionale di Conte o quella di Volley, che si gioca la seconda partita del gironcino dei quarti di finale. Secondo me si possono guardare tutte e due, ore 20 Italia-Russia al Forum, mi guarda Franco Piantenida, pigliamo la Russia in 3 set, c'è tempo anche per guardare la nazionale di Conte. Bonitta poteva pensare, però poi razionalmente uno dice ok, guarda chi hai di fronte, guarda chi hai e dici ce la possiamo giocare, non che possiamo vincere 3-0. Poi è realmente successo perché la squadra ha dimostrato, a una squadra importante come gli Stati Uniti, che non ha cedimenti, neppure, come avete visto, alla fine del primo e del secondo set, quando eravamo sotto nel punteggio, la squadra ha determinata. Ha giocato la miglior pallavolo nel momento che conta, e questo è un segno di grande squadra, passatemi questo termine. Stanno trasmettendo entusiasmo, stanno trasmettendo passione, questo è molto bello, perché quando una squadra riesce ai tifosi a trasmettere tutto questo, significa che sta facendo qualcosa di importante, al di là del risultato finale. Quindi alle 20 l'appuntamento con il volley, Italia-Russia, basta un set per essere primi nel girone ed evitare di incrociare poi con il Brasile, fortissimo, in semifinale. 20:45 Italia-Azerbaigian, Palermo, il nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Giovanni, grazie della convocazione. Mi dai le ultimissime di Palermo? Beh, ultimissime arrivano da Villa Miscemi, dove c'è stato il pranzo ufficiale. È arrivata la delegazione azzurra col presidente Tavecchio, il vicepresidente Magalli e Fiona May, che lo sappiamo è la consigliera speciale antidiscriminazione e razzismo. Lungo pranzo ufficiale, senza che però Tavecchio abbia rilasciato dichiarazioni, quindi sì, ormai gira scortato. Sì, oggi anzi non si è vista ancora la guardia del corpo Lotito, ma chissà, magari arriverà. Sì, Lotito è a Milano, è in Lega Calcio, atteso sì, dai colleghi all'ingresso della Lega Calcio, non ha risposto a nessuna domanda, ha detto, rivolto ai giornalisti, siete una categoria poco apprezzabile. Tutto sommato può essere anche un no, ma sicuramente ha ragione, per carità. No, sì. Ce l'aveva aveva riportato le sue parole su Marotta, lo strabismo, se l'era legata al dito. Prego Dario. Sì, insomma, diciamo che può essere anche interpretato come un complimento, visto la punta. Però andiamo subito alle formazioni, perché quella azzurra, il nodo è sugli esterni, no? E Conte sembra aver scelto Pasquale a sinistra e Darmian a destra, mentre saranno Marchisio e Florenzi interessante, no? L'utilizzo come interno, gli scudieri di Andrea Pirlo, che oggi con la 113esima presenza supera il mito Zoff e entra ulteriormente nella leggenda azzurra. Davanti Immobile e Zaza, coppia confermatissima, dietro Buffon, che di presenze arriva a quota 143, protetto dal terzetto Chiellini, Bonucci, Ranocchia. Quindi questa dovrebbe essere la formazione azzurra, salvo diciamo al 99,9%. Sì, credo esista un ballottaggio tra De Sciglio e Pasquale a sinistra, dove ci sia ancora aperto e probabilmente verrà scelto, poi è sciolto il dubbio anche nell'ultima riunione tecnica, quella che Conte farà prima di andare allo stadio che, mi pare di aver capito, questa sera è tutto esaurito. Tutto esaurito il Barbera, 34.000 spettatori, cioè, niente, Palermo si è messo il vestito da sera per salutare come d'abitudine la nazionale, che qui ha sempre ancora un grandissimo richiamo. Direi che è un elemento in comune molto bello, molto positivo, con gli 11-12.000 attesi al forum tra oggi e domani. Insomma, c'è voglia d'azzurro, Giovanni, e questo sicuramente è un dato da sottolineare, da cui si può costruire qualcosa di buono. Sì, credo questa è la migliore notizia, al di là delle notizie che sono venute dal campo contro Olanda e Norvegia, di questo inizio dell'avventura di Conte. Noi usciamo da un mondiale dal quale avevamo tratto certamente non ottimi segnali a livello di amore, anche quell'arrivo alla Malpensa con nessun tifoso ad accogliere, a contestare anche, perché il calcio è passione, si può anche contestare il ritorno di una nazionale che era stata eliminata dopo il girone eliminatorio. Si è passati da quell'indifferenza lì all'abbraccio di Palermo, che poi misureremo stasera, ma che credo abbiate misurato già ieri. Sì, ieri 1.000-1.500 tifosi ad applaudire gli azzurri, però è una cosa che proprio si sente nelle strade, il fatto che la città sta aspettando la nazionale. La nazionale che forse farebbe bene a venire più spesso qui al sud per ritrovare un po' di calore, anche se poi abbiamo uno stadio come il Barbera che dal primo gennaio, come sai, come sai bene, vista la normativa UEFA ancora più stringente che entrerà in vigore, non potrà poi utilizzare poteva essere utilizzato per gare ufficiali, quindi ritorna anche il problema degli impianti ed effettivamente si fa fatica a immaginare al Barbera gare di un certo spessore internazionale, ecco, non solo al Barbera ma in questo caso allo stadio che ci ospita questa sera. Sì, perché quello che pochi sanno è che dal 2015 saranno soltanto 11 gli stadi che potranno ospitare una partita ufficiale della nazionale. Questo porterà l'Italia probabilmente anche lontana da piazze che poi sanno esprimere il calore di Palermo, di tante piazze del sud, e che però non hanno delle strutture adeguate. Grazie Dario, a questa sera. Grazie a voi, Forza Azzurri da Palermo. 80024. Cioè, abbiamo condiviso tanti momenti, era sempre a Maranello, Jules, sempre a giocare calcetto, sempre andare in bicicletta, a mangiare, a cenare con lui al motorhome. Non è un weekend facile per tutti noi. E per tutta la Ferrari, quello che dobbiamo fare è essere professionisti, essere uniti come squadra e fare una gara seria per mandarli forza tutti uniti come Ferrari, a lui, alla sua famiglia e pensare a lui tutto il tempo. Grazie. Non è un weekend facile per nessuno, a Sochi, Marco Mensurata, inviato di Repubblica. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. Non è facile per nessuno a 5 giorni da quello che è successo in Giappone, e mi pare di aver capito con tra mezz'ora la possibilità di cominciare un po' a fare il punto della situazione sulla sicurezza e su tante polemiche. Sì, beh, questo diciamo è il dovere un po' di tutti. Se in una situazione del genere quello che ciascuno deve fare, insomma, semplicemente fare il proprio lavoro, ed è quello che stanno facendo i piloti in pista in questi giorni. Purtroppo non è quello che stanno facendo le istituzioni della Formula 1, che invece in maniera un po' troppo lenta stanno reagendo a quello che è successo, nel senso che ancora non sono stati in grado di fornire una definitiva. Sì, abbiamo problemi con Sochi, con Marco Mensurati, vediamo magari se riusciamo a riagganciarlo. 800240024, Ezio da Perugia. Ezio. Sulla moviola, buonasera. Prego. Non so se qualcuno di voi ha visto la partita di rugby di domenica, Sudafrica-Nuova Zelanda. Cosa è successo? Allora, primo tempo, Sudafrica 24, Nuova Zelanda 11. A 2 minuti dalla fine, ripasso sul rugby, Nuova Zelanda 25, Sudafrica 24. A 2 minuti dalla fine, punizione a favore della Nuova Zelanda. Moviola, si ribalta giustamente la punizione, tiro, 27 Sudafrica, 25. Ma il rugby è abituato alla moviola, è abituato a qualcosa che noi nel calcio non abbiamo già. E ripeto, io ho qualche dubbio sulla possibilità di applicazione della moviola in campo al calcio. E quello che è successo domenica, io mi sto annoiando io a ripeterlo, quello che è successo domenica con Juventus-Roma è il paradigma della difficoltà di applicare la moviola al calcio. Per cosa la vogliamo? Il gol non gol? Certamente. Il fuorigioco? Fuorigioco oggi pesa più l'interpretazione che ne danno gli arbitri piuttosto che la misurazione in centimetri. Anche sul fuorigioco io ho qualche dubbio che la moviola in campo servirebbe. Però la sperimenteremo, perché Tavecchio l'ha chiesta alla FIFA, e quindi io credo nei prossimi mesi arriverà anche la sperimentazione in Italia. Pierluigi da Lucca. Pierluigi. Pronto? Prego. Pronto? Prego. Senta, io mi domando cosa aspettano a applicare le regole, il sistema degli arbitraggio del rugby al gioco del calcio. Quando, dove c'è un arbitro, c'è un suo collaboratore in tribuna che vede 4 televisioni, la conversazione fra i due è sentita dagli 80.000 spettatori, il video è visto dagli 80.000 spettatori, l'arbitro, passati 10-15 secondi massimo, decide. Ma cosa aspettano? Probabilmente poco, almeno da quello che abbiamo letto e da quello che abbiamo capito sulla volontà di Blatter di seguire l'onda di chi chiede la moviola e della volontà di Tavecchio di mettere la Federcalcio in prima fila nella sperimentazione della moviola. Io ripeto, io ho tanti dubbi, ho dubbi anche sulla tempistica di questa lettera di Tavecchio proprio in questa settimana. Mi sembra una scelta dettata più dall'opportunismo. È tornato Pierre? Sì, ti sto ascoltando. Ma ti piace o no quest'idea, ad esempio, che Tavecchio candidi l'Italia per provare, per sperimentare la moviola in campo? Allora, molte scelte di Tavecchio negli ultimi mesi sono state dettate dall'opportunismo e sono state dettate dalla necessità di recuperare un consenso che lui ha perduto subito con questa battuta su tipo Bah. Da quel momento in poi lui ha cominciato a fare una serie di cose, tipo la commissione contro il razzismo, ha fatto delle cose, anche la stessa scelta di Conte. È una scelta che probabilmente, se avesse avuto un contesto più rilassato e meno pressione mediatica, forse non è detto che avrebbe fatto. Io vi ricordo che a bocce ferme, prima della famosa battuta sul tipo Bah, si diceva che il candidato ideale, chi frequentava insomma la politica sportiva, diceva che il candidato ideale di Tavecchio era Guidolin. Ha scelto Conte perché evidentemente in quel momento lì aveva bisogno di mandare un segnale forte. Allo stesso modo, secondo me, è questo. Cioè, è chiaro che Tavecchio è partito in salita dal punto di vista mediatico e quindi fa delle cose per riuscire ad ingraziarsi l'opinione pubblica, però se questo porta alla fine ad accelerare dei processi che possono essere giusti, perché no? Cioè, voglio dire, sinceramente, insomma, e qui secondo me il progetto è Lanciano, l'abbiamo sentito l'altro giorno, è un progetto molto interessante. L'unica cosa vera per uscire, diciamo, dalla polemica sterile certe volte, insomma, sul sospetto, sull'arbitraggio, sui veleni, sulle partite oggettivamente condizionate, è proprio questo, cioè fare delle cose per cambiare le regole. Sì, posto che mi pare che il calcio abbia delle particolarità diverse rispetto al rugby, alla pallavolo, al tennis, a tutti gli altri sport che c'hanno. Le cose metriche, se prendi la partita dell'altro giorno. Ma il fuorigioco, ad esempio, è da prova televisiva da moviola o no? Perché, ad esempio, oramai con le varie interpretazioni dell'International Board, mi pare di aver capito che sul fuorigioco pesi più l'interpretazione assistente, arbitro, piuttosto che la misurazione. Nella sua componente metrica, però, è certamente invece può essere oggetto di prova definitiva, nel senso che ci sono i casi in cui un fuorigioco è evidente, come quello dell'altro giorno di Vidal, e il dibattito è su se sia o meno attivo o passivo, o anche la stessa situazione della Samp nel derby la settimana prima, no? Con tante polemiche da parte del Genoa. Ci sono però delle altre volte situazioni invece in cui la discussione non è sull'attivo o il passivo, nel senso che è sicuramente attivo e bisogna solo capire se è oltre o no, e qui la tecnologia può essere utile. Sì, io credo, anche se probabilmente entreremo in una casistica dove poi si aprirebbero altre discussioni. Ad esempio, io credo che la Roma avrebbe chiesto il challenge sul gol di Bonucci. Saremmo qui a discutere su perché gli arbitri davanti al televisore hanno dato buono il gol di Bonucci, pur avendo visto le immagini, pur avendole interpretate, malgrado il buon senso dica che quello era fuori gioco. Non lo so, io non la vedo tutta questa applicabilità della moviola nel calcio. Io la vedo complicata e, come dicevo l'altro giorno da Bodi, tra l'altro, se si sbaglia dopo aver visto la moviola fa ancora più male, cioè la cultura del sospetto diventa al cubo, no? Nel senso che un conto è un arbitro che magari sbaglia e sbaglia perché non è facile arbitrare, un conto è se sbaglia dopo aver rivisto con 15 telecamere aver rivisto le immagini, a quel punto uno può veramente pensare alla malafede. Quindi questo è indiscutibile. Detto questo, secondo me sono più le positive delle negative, nel senso che sono degli errori nella normalità delle partite talmente evidenti, talmente clamorosi, talmente chiari come interpretazione da parte delle immagini, che almeno quelli li eviteresti. Per cui sicuramente avresti qualche situazione in cui non riesci a decidere, avresti il paradosso di qualche situazione dove sbagli nonostante le immagini e ti vuoi far venire ancora più sospetti, però secondo me su tante altre situazioni che sono la maggioranza risolveresti il problema. Sì, una mano possono darla. Poi scrive Alessandro da Imola: possiamo anche mettere 20 arbitri, ma se prendono una decisione a favore della Juventus, per metà Italia saranno tutti e 20 venduti, perché poi noi siamo anche questi, e faccio fatica a dar torto ad Alessandro. Sergio dalla provincia di Varese. Sergio. Sì, ciao. Prego. Anch'io su moviola, io invito quelli che vogliono la moviola a prendersi una bella PlayStation e mettersi a giocare al calcio virtuale. cioè, se escludiamo le interferenze che arrivano dalla vita normale, se escludiamo che nel calcio è uno sport e che quindi esiste l'errore umano che può fare un arbitro, ma può fare, allora cosa facciamo quando un calciatore davanti alla porta libera tira fuori, cosa facciamo? Lo stoppiamo e glielo facciamo rifare perché ha sbagliato, così come magari può sbagliare un arbitro nel giudicare in una frazione di secondo una cosa che per me lui si, come dire, può essere che un arbitro sia incompetente, ma io la buona fede non la posso mettere in discussione. Sì, c'è chi dice anche che ci vorrebbero gli arbitri robot, un misto tra Terminator e Collina, perché poi c'è il rischio di scivolare nel calcio virtuale, Pier. No, ma assolutamente, sai, ci scivoliamo già sminuzzando le partite, poi con la moviola per episodi. E le volte quando giochi alla PlayStation, addirittura il concetto di realismo dei programmatori ti porta a far sì che ci siano ogni tanto gli errori arbitrali per rendere il tutto più credibile, più realistico, no? Perché se il computer decide sempre bene, allora il gioco è meno realistico, perché invece gli arbitri umani, ovviamente gli esseri umani sbagliano anche. Quindi, però ripeto, qui non deve diventare un alibi, nel senso che io sono d'accordo con tutto e ti dico che in generale è chiaro che l'errore arbitrale fa parte del gioco, un po' quello di Chiovanetta dell'altra sera, però il rischio grosso, vero, secondo me, è che qualcuno possa pensare che non si vuole cambiare per dare un vantaggio a qualcuno e dare uno svantaggio ad altri. Sì. Secondo me questo è un rischio. C'è anche chi dice, Enrico, usiamola. Enrico, c'è anche chi dice che gli unici a non volere la moviola sono i giornalisti, perché poi non c'è modo di parlarne per giorni. Guarda, per carità, qui ribadiamo che io sono contro la moviola, ma per altri motivi. No, perché io sono... secondo me esiste per alcune fattispecie, il gol non gol. Guardate che ad esempio la moviola nel basket esiste per capire se un tiro è stato scoccato alla fine del tempo, però lì il tempo effettivo, che nel calcio ad esempio non c'è, esiste la discrezionalità dell'arbitro. Io non so in quante fattispecie potrebbe essere applicabile, guarda, al calcio. Questo è secondo me il discorso. Ci sono delle regole talmente assurde, delle interpretazioni talmente assurde del gioco, talmente discrezionali, che veramente ti viene a pensare che l'abbiano fatte per un po' come gli pare a loro. Non è così, ovviamente. Però l'altro giorno parlavo con Cesare, per esempio, della regola del famoso gol di Bonucci, no? Dove è impossibile, letteralmente impossibile per il guardaline, che ha una visione perimetrale, no? Dall'angolo, quindi completamente schiacciata, capire se Vidal sia o meno davanti a Scorucci rispetto alla traiettoria del pallone. Quella cosa lì il guardalino non la può mai fare, quindi il guardalino avrebbe dovuto alzare la bandierina e l'arbitro, che aveva una prospettiva migliore, dire: hai fatto bene alzare la bandierina perché Vidal era oltre, però guardando la linea poteva discrezionalmente dare il gol. Ma ti rendi conto della complessità del delirio di questo? Complessità che secondo me neanche la moviola in campo, ad esempio nel gol di Bonucci e Vidal, avrebbe in qualche modo risolto. Credo che dopo 5 giorni saremmo ancora qui a parlare di quel gol lo stesso, anche se fosse stato annullato dopo la moviola in campo o concesso dopo la moviola in campo. The 60,000 seat stadium, first stadium that's being built under the new UEFA guidelines. So for Champions League, you know, to have rugby games, we have a joint venture with them to do Coachella festivals, opera festivals, jazz festivals. We'll have our training facility there. We'll have a performance training institute, our Hall of Fame, a superstore there, or 300,000 square feet of LA live entertainment type of space that's going to be specialty curated. So obviously, I'm pretty excited about it. We're pretty excited about how it just changes the dynamics of what we're trying to do at Rome and, you know, take it to the next level. So 2 years from hopefully we'll open up the 2017 season with you know, a new stadium. Questo era Pallotta che parlava del nuovo stadio. Oggi Pier, Corriere della Sera, abbiamo anche letto della classifica di Standard & Poor's sulla solidità finanziaria dei club europei di calcio. 44 bilanci analizzati, fra le tre bocciate con la tripla D, quindi classificate titoli spazzatura, insieme al Tenerife e all'An c'è l'Inter, però c'è anche qualche cosa che non si capisce in queste classifiche, Pier, lo vogliamo dire? C'è il Siena. Che secondo Standard & Poor's è meglio di Milan, Roma, della stessa Inter. Siena che praticamente è fallito. Dai, adesso voglio dire che discorso è. No, invece mi interessa molto su Pallotta. Io ho la sensazione che Pallotta stia facendo veramente le cose in grande, che abbia capito l'importanza di uno stadio di proprietà, che è una cosa che hanno capito, se lo posso dire per certo, adesso sono in questione con con un giocatore da Roma proprio ieri mattina, anche abbastanza rappresentativo. L'importanza di avere uno stadio di proprietà, no? Quanto possa in certe situazioni influire sul risultato, influire correttamente sul risultato, insomma condizionare il tipo di ambiente. Questo credo che insomma Pallotta lo stia facendo. È chiaro che la sua presa di posizione l'altro giorno, nel momento delle feroci polemiche, non è stata molto popolare. Una parte del pubblico della Roma l'ha vissuta con un calarsi le braghe. In realtà, secondo me, anche se mi rendo conto che è poco popolare, poco facile, però è assolutamente l'unica strada possibile e percorribile per non dare alibi all'ambiente, scossa in positivo. E poi è evidente che insomma la Roma società si sia arrabbiata e molto, e se lo posso dire anche al fischio finale della partita per quello che è successo l'altro giorno. Però il segnale, secondo me, che Pallotta ha voluto dare è un segnale intelligente di una società che ha le spalle larghe, che sta investendo e che non lascia e che non si lascia confondere da una partita sbagliata, da una partita persa, che vuole ricominciare il cammino esattamente da dove era fino a domenica. Giuseppe dalla provincia di Bari. Giuseppe. Grazie, buonasera. Io vorrei parlare dell'incidente di Bianchi per esprimere la contraddizione visibile dalle immagini televisive fra quella protezione al guardrail così spessa che si diciamo protende per tutta la curva, per tutta la via d'uscita della curva, e la presenza incredibile della macchina che recupera, della macchina della Stern, insomma di quella macchina che recupera Sutil. La macchina di Sutil. E perché questo fatto è assolutamente inverosimile, incredibile, dato che in altri circuiti, per esempio penso a Monte Carlo, tutte quelle macchine operano al di là del guardrail, non invece sulla pista. L'altra cosa che volevo evidenziare è il fatto che non sono state diffuse, almeno io non le ho viste, le immagini del camera car di Bianchi, perché immagini che sarebbe molto interessante vedere per verificare se davvero siano state esibite al pilota le bandiere gialle, come si dice, o addirittura anche a Bianchi le bandiere verdi, dato che se ne vede sventolata una. Sì, ma io credo che difficilmente noi avremo la verità di quello che è successo. Basti pensare che l'inchiesta è stata affidata a Charlie Whiting, che era la direzione corsa a Suzuka, e quando in tanti si aspettavano che a fare questa inchiesta fosse un ente terzo, posto che da quello che abbiamo letto in Giappone viene considerata una fatalità, e quindi ad esempio non è stato aperto un fascicolo d'inchiesta dal punto di vista penale. Però credo che tra una mezz'oretta ne sapremo di più, perché a Sochi la FIA fa il punto su quello che è successo a Suzuka, cercando anche di dare alcune risposte. Vito da Matera, Vito. Ciao, buonasera. Prego. Io volevo fare un appunto sul discorso della moviola. Cioè, praticamente qua si sta discutendo se la moviola è un bene o un male, ma sicuramente quando si va a fare una valutazione, anche un arbitro, un esterno che sia in tribuna o dove, e va a giudicare, che ne so, il gol di Bonucci, che quello non è una posizione che può dar fastidio al portiere, c'è un precedente. Una seconda volta, se capita per esempio a sfavore della Juve, che prende un gol del genere o similare, quella stessa persona non può dire il contrario. Cioè bisogna avere almeno un'uniformità di giudizio. Piero. Allora è meglio averlo anche un aiuto a chi deve decidere, avere un supporto tecnico dove se sbagli almeno hai la faccia di dire sì, hai detto che non è gol quando si è visto che è entrata mezzo metro dentro la palla. Cioè devono avere gli attributi di dire sì o no, perché così sì, ma sulla palla mezza dentro e mezza fuori, secondo me la moviola serve ed è stata fortunatamente e finalmente introdotta. Sul resto c'è comunque una valutazione, e ad esempio io torno al gol di Bonucci, Pier, credo che chiunque l'avrebbe comunque discusso, qualunque sarebbe stata la scelta. L'abbiamo detto mille volte, tutti gli episodi, tutti, dalla parte e dall'altra, tranne secondo me il rigore di Maicon che sta nel cielo e in terra, ma tutti gli altri episodi in realtà sono stati complicatissimi. Sarebbero stati discussi a prescindere. Alla fine abbiamo capito che il gol di Bonucci era buono, questo abbiamo capito, ma dopo una discussione quasi da giurisprudenza complicatissima, con lenti, contro lenti, eccetera eccetera, sul discorso dei centimetri sul rigore al minuto finale del primo tempo, assolutamente parliamo di millimetri, forse più che di centimetri. Quindi è stata sicuramente una partita molto molto particolare, con tanti episodi veramente al limite. lì c'è la lamentela della Roma è sulla quantità. Sarebbe venuto il mal di testa anche all'arbitro dietro lo schermo, diciamo la verità, non solo a Rocchi. Credo che Rocchi stia bene in questo momento. No. Aspetta che c'è ancora Andrea da Modena, che ce l'abbiamo da qualche minuto che aspetta. Andrea. Sì, eccoci. Prego. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Una cosa solo al volo vorrei dire. Secondo me forse si va indietro nel tempo, cioè la moviola è progresso. Andrei indietro nel tempo con la regola del fuorigioco, cioè annullerei, eviterei tutte passivo, queste interpretazioni. Hai perfettamente ragione, altrimenti fanno prima ad abolirlo, perché di fatto il fuorigioco oggi è quasi abolito, Pier, e in più si complica il lavoro agli assistenti e agli arbitri. Siamo in fondo. Pier, hai fatto la prova vestito? Tutto a posto? Guarda che domenica ti chiamo, se piove che ho mangiato oggi, penso che posso. Devo rifare il vestito direttamente. Mm. L'unica possibilità è il digiuno per le prossime 24 ore. Domenica ti chiamo, ci sentiamo. Va bene. Alle 17. Ciao. Domenica, vabbè. Anche domenica. Ci sentiamo domenica alle 17. A tutti, ciao. E basta adesso, grazie. Vogliamo detonare adesso, basta! Ce n'è una marea lì dentro, non ci capisco un cazzo io, non vedo niente, c'è troppo casino. Mica qua dice le 7-8, tutti fuori gioco. Bravo, ok, perfetto. Bravo Paolo. Bravo Roby. Dai Roberto, fai battere subito, levalo i tonni. Dai Roby, fai battere subito, via. Dai, il pallone.